andiamo? Oi, Bianca! E allora, Brigido, che fai? Preparandomi per lavorare, che faccio? Sì, alle 2:30. Solo quello, io credo che te ne davano 20.000. Il contratto è per 10.000. Ma di chi si attacca alla bovita, Manuè? Ma senta che per poco sa che va la cazzo che dà di sopra. Non si sa mai. Avvi. Eva. Mamma mia, che dà la cazzo per confanga, va. Acqua sta facendo, mangia. Anch'io fra un po' mi metto a cucinare qualcosa.